9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon inizio di settimana, buon lunedì 17 di ottobre, Oscar Giannino. Purtroppo il sabato a Roma, era a Roma anche lui, ed è stato molto preoccupato e molto colpito da tutto quello che abbiamo visto e vissuto. È rimasto senza parole ed era però tra coloro che naturalmente temevano, si aspettavano quello che era avvenuto. Era curioso di capire, come tutti i colleghi e come tutti i cittadini italiani, come il nuovo fenomeno della protesta di centinaia di migliaia di giovani preoccupati per il loro futuro, scandalizzati perché a 4 anni dall'inizio della crisi finanziaria siamo ancora alle prese con meccanismi del modello di intermediazione finanziaria non profondamente mutati, con regole e principi nuovi, potessero convivere con forme della protesta che negli anni, negli ultimi anni, siamo comunque stati abituati a vedere convivere con la legittima preoccupazione e la comprensibile volontà di una nuova generazione di protestare fuori dalle vecchie appartenenze di partiti, sigle politiche. Eppure avete visto, la convivenza è stata complicata e ha dato origine a una giornata terribile a Roma, una giornata senza uguali nel mondo. La preoccupazione aggiuntiva per chi vi parlava è che sabato, per caso naturalmente, proprio nelle stesse ore, il sottoscritto aveva deciso, stabilito e previsto di sposarsi esattamente nel centro di Roma. È stata una giornata molto complicata e naturalmente ci si sente anche in colpa per aver scelto poi quel giorno per un appuntamento importante nella mia vita privata. Ci si sente in colpa perché immediatamente ci si sente fuori luogo, fuori posto, chiedere ai tuoi amici e ai tuoi ospiti di festeggiare mentre tutti hanno in testa a rimbalzare quello che sta avvenendo a 1 chilometro, a 2 chilometri di distanza. Ci si sente spaesati in questo paese, quasi in colpa con se stessi e soprattutto con chi per ore ha vissuto paura, indignazione, e si è molto profondamente arrabbiato, sia coloro che protestavano per vedere naturalmente Roma e la loro manifestazione trascinata nel fango, unica tra tutte le centinaia di manifestazioni che quel giorno di mobilitazione mondiale avvenivano nel mondo, sia per coloro che poi non comprendono affatto questa sopravanzare di violenza deliberata, cieca. Era ovvio, guardando le immagini di chi colpiva e cercava la vittima, sì, bisogna dirlo, io sono d'accordo con chi ha usato questa parola, ed era inequivocabile che quelle centinaia, rispetto alle decine e decine di migliaia di coloro che incappucciati hanno dato il segno della giornata, cercavano il maggior numero di danni possibili e la maggior violenza possibile. Ecco, chiusa parentesi, ma perché in realtà quella giornata, la giornata di sabato, fa esattamente da sfondo alla ragione per cui oggi abbiamo dedicato di questa trasmissione a un ospite unico che ricorrentemente io sono lieto accetti di venire anche in questa trasmissione, perché lo considero una delle menti più illuminate, perché nella sua attività di giornalista e di scrittore da molti decenni è una specie di voce della coscienza che, avendo seguito per tanti anni la politica, è stato un maestro di come generazioni di giornalisti apprendevano a seguire i congressi di partito, i convegni di partito, le evoluzioni, mettendo insieme storie personali di leader politiche e anche tutto ciò che apparteneva al logo comune della tradizione della forma partita italiana, fino a che poi essa è scomparsa nella Seconda Repubblica per reinverarsi in qualche cosa che ha a che vedere con un misto di principio carismatico e vecchia logica delle bande feudali dell'Italia premoderna, per così dire. Ecco, in tutto questo lui però ha sempre svolto il suo mestiere con un interesse parallelo che gli veniva dalla formazione universitaria, che era una formazione molto attenta alla storia, e ci ha regalato poi libri meravigliosi su un capitolo che era tabù a lungo, quello della guerra civile italiana, quello di quei terribili 2 anni in cui, per liberarsi dal regime fascista in Italia, in alcune aree soprattutto, è avvenuta una vera e propria guerra civile, e poi ha trasposto questa stessa attenzione in tanti angoli trascurati della storia italiana contemporanea, sempre con una grandissima attenzione ai documenti, agli archivi, alla ricerca delle carte. E questa persona ha un nuovo libro in edicola, che è un libro che fa da sfondo assolutamente azzeccato alla giornata di sabato. Sia il motivo per cui tanti giovani scendono in piazza in Italia e in tutto il mondo contemporaneamente, e contemporaneamente sia quella disperazione cieca di violenza che abbiamo visto nella piazza. Il libro si intitola Poco o Niente ed ha un sottotitolo che dà l'idea, appunto, del dilemma che grava sull'Italia, perché il sottotitolo è Eravamo poveri, torneremo poveri. È un libro fantastico perché in realtà prende la storia di una famiglia italiana dalla seconda metà dell'Ottocento in tutto il Novecento e accompagna per mano il lettore attraverso una epopea straordinaria che è stata l'epopea di milioni di italiani nel secolo scorso e che è la storia recente dell'Italia che entra nella modernità, ci arriva in ritardo, ma entra nella modernità e nell'arco di una o due generazioni esce da una condizione di reddito, di vita quotidiana, di relazioni umane improntata per la stragrande maggioranza, per il 95% degli italiani a una povertà che sconfinava nella miseria vera, a un orizzonte di vita in cui fin da quando si aveva 6, 8, al massimo 10 anni c'era la vita nei campi, senza diritti, senza tutele, stenti di tutti i tipi, e nell'arco delle due generazioni invece il salto, si passa da una vita agropastorale improntata alla sopraffazione del più forte, dei pochissimi più forti, mentre l'Italia vive una parabola terribile, perché è la fine della destra storica che ha costruito l'Italia, il non essere all'altezza da parte dei ceti liberali di guidarne lo sviluppo in maniera equilibrata, e poi il biennio rosso, il socialismo velleitario, il fascismo che diventa regime, la tragedia della seconda guerra mondiale, i 15 anni fantastici tra il 45 e gli anni 60 in cui c'è l'esplosione invece del reddito, cambiano i connotati degli italiani, la generazione degli spodestati diventa la generazione che per prima va all'università, tutto sembra diventare nell'arco di due decenni diverso, fino al punto da dire eravamo poveri, non lo siamo più, non lo saranno mai più i nostri figli, e invece ecco che l'interrogativo oggi torna, col rischio di sembrare fuori luogo a porselo, ma anche invece con un orizzonte di crisi finanziaria mondiale, con un orizzonte di problema specifico italiano, a cui si aggiunge la scarsa credibilità della politica italiana attuale nel mondo, che rende, secondo me, questo interrogativo veramente azzeccato, perché è la maniera di guardare alla storia ricordandocela, perché molti di noi non hanno neanche presente in quali condizioni hanno vissuto le generazioni di mio padre, di mia madre e dei miei nonni, e invece dicendo guardate che il disastro che abbiamo compiuto, se torniamo di nuovo a dare ai nostri figli una prospettiva di questo tipo, è un disastro di cui dovremmo essere memori di ciò da cui stiamo uscendo. Il protagonista di cui stiamo parlando e l'autore di questo nuovo libro, Poco o Niente, Eravamo poveri, torneremo poveri, si chiama Giampaolo Panza e io lo ringrazio per essere qui con noi. Buongiorno e grazie. Beh, buongiorno a te, caro Oscar. Troppo onore, mi hai fatto. No, Giampaolo. Troppo onore. Non scherziamo, perché ancora una volta io il libro l'ho divorato e il libro. Ma troppo onore, non soltanto per il libro, ma per il mio piccolo personaggio. Io sono un vecchio signore che ha avuto la sfortuna di nascere parecchi anni prima di te, caro Oscar, che ha sempre fatto come hai sempre fatto tu. Ho sempre cercato di osservare le cose, i personaggi, le situazioni, i conflitti di cui dovevo scrivere con occhi il più possibile limpidi, insomma, senza essere al servizio di nessuno. Comunque grazie di avermi portato la tua trasmissione di Radio 24, voglio assolutamente abbracciare tutti i tuoi ascoltatori che per una mattina saranno anche i miei. Senti, qui c'è una storia che è bellissima, di cui chi ha letto i tuoi libri ha sempre in realtà già visto dei pezzi preparatori, e qui c'è la parabola intera con questa nonna Caterina, con tuo padre Ernesto, con tua madre Giovanna. Quello che mi colpisce al di là di tutto è che ogni tanto ci sono dei capitoli a parte in cui ci ricordi quanto queste generazioni vivessero in Italia, in cui le malattie dovute alla miseria, alla fame eccetera erano stragi di massa, perché i capitoli che dedichi al colera, alla pellagra eccetera eccetera ci ricordano di qualche cosa che in realtà chi è giovane oggi o chi insomma oggi ha anche 40 anni, 50 anni, se non ha memoria diretta di famiglia non ha la più pallida idea di che cosa fosse l'Italia della miseria. No, non ha un'idea, e da quel che capisco, dalle telefonate che ricevo, dalle lettere che mi arrivano, da quel che mi dicono i librai, poco niente, è molto letto perché i lettori ci ritrovano, come dici tu, la storia del loro passato. Allora, io ho scritto in una delle prime pagine che l'Ottocento, al contrario di quello che raccontiamo, che abbiamo soprattutto raccontato in tutti i festeggiamenti infiniti per i 150 anni dell'Unità d'Italia, è stato un secolo feroce, ma feroce non soltanto per quello che hai ricordato tu, ma non soltanto per lo squilibrio terribile tra ricchi e poveri, per come veniva consumato il sesso in quegli anni, anche quella era una violenza che i ricchi imponevano alle ragazze belle ma povere. Ci sono tanti capitoli, tante storie che avevo sentito raccontare da mia nonna, che è campata fino al 1947, era analfabeta Caterina, non sapeva parlare l'italiano, mio padre e mia madre si rivolgevano con il voi ma in dialetto monferrino vercellese, non volevano che noi imparassimo, mia sorella e io, il dialetto. Mia nonna invece sfogliava Bolero Film e io le dicevo: scusa, ma guardi Grand Hotel e Bolero Film, cosa ci capisci, sei analfabeta? Lei mi diceva: questi segni neri sulle nuvole bianche non so cosa siano, ma basta guardare le facce per capire tutto. Una regola che io ho imparato e ho applicato quando facevo il cronista per il Corriere della Sera, poi per Repubblica, poi per l'Espresso, nelle grandi convention dei partiti, mi portavo il binocolo, azzeravo l'audio perché eravamo troppo lontani, non si sentivano, e guardavo e capivo tutto. Però il dramma di questo secolo, la ferocia dell'Ottocento, poi lo si vede all'inizio del Novecento e nella Prima Guerra Mondiale. Il libro si ferma alla nascita del fascismo, ma la guerra mondiale, che naturalmente il mio filo conduttore è stato mio padre, Ernesto, arruolato a 18 anni perché faceva l'operaio del telegrafo e avevano bisogno di costituire il genio radiotelegrafistico, che prendevano tutti, quelli poco più che ragazzini come Ernesto, fino a degli uomini maturi con famiglia di 40, 41, 42 anni. È stata la conclusione della ferocia, ha fatto molto più di quello che ha fatto il colera, la malaria, la pellagra, la tubercolosi, il vaiolo. È stato il massacro dei poveri. Gli ultimi capitoli di questo libro, credo che ce ne siano 4 o 5 dedicati alla Prima Guerra Mondiale, è come dire la conclusione di una tragedia iniziata nella storia italiana da sempre, dal momento in cui si ha memoria, anche sotto l'impero romano certamente le cose stavano così, ma per venire ai secoli vicino ai nostri, tutto l'Ottocento è stato, certo, percorso anche da fermenti liberali, fermenti democratici, però è stato soprattutto il dominio dei pochi signori sui tanti poveracci, compresi mio nonno paterno, mia nonna paterna, i miei nonni materni. È la cosa che mi colpisce, che quando riporti le domande che hai fatto tuo padre per capire che cosa era stato per lui l'arruolamento alla Prima Guerra Mondiale, in cui poi viene assegnato alla Terza Armata del Duca d'Aosta, e come telegrafista tutti gli attacchi all'armata lui deve andare a stendere i fili, quindi tocca con mano ogni giorno, non verrà colpito ma sarà un caso, le migliaia e migliaia di morti buttati all'assalto per poi non conquistarlo mai, ecco, di mutilati. Però quando tu gli chiedi, ma innanzitutto cosa è stato per te, la sua risposta franca è: guarda, ti stupirò, ma per me la cosa di che mi hanno dato un cappotto e mangiavo due volte al giorno, per me era la svolta rispetto alla vita precedente. Quindi questo per dire qual era l'orizzonte. Dunque, quando io ho chiesto a mio padre come ti sei trovato a fare il soldato semplice nella Prima Guerra Mondiale, la sua risposta mi lasciò secco, perché mi disse: se ti rispondessi che mi sono trovato bene, direi una bugia, perché io mi sono trovato non bene, ma benissimo. E io ho detto, ma come benissimo? Sì, perché, come hai ricordato tu un istante fa, Oscar, ho avuto il primo cappotto della mia vita, perché in 18 anni non avevo mai posseduto quello che dalle nostre parti si chiama ancora il paletò, ecco, il paletò. Ho avuto degli scarponi nuovi invece di scarpe usate di seconda o terza mano che si sfasciavano subito. Ho mangiato due volte al giorno invece che una volta sola. E ogni giorno in uno dei due pasti nella gavetta si trovava un pezzetto di carne, magari tigliosa, ma carne era, oppure di baccalà, quando Cadorna decide di mettere, far stringere la cinghia ai soldati perché non c'erano più soldi. Più soldi. E ho assaggiato per la prima volta il cioccolato. Ho fumato la mia prima sigaretta e sono pure andato per la prima volta a donne. E dico, come a donne? Sì, perché c'erano i bordelli militari, infatti io racconto anche di queste storie. E il Duca d'Aosta, che aveva la fama di essere un grande donnaiolo, forse era la sua, è un esperto di cavalli, era una delle due qualità preminenti, aveva l'ambizione che i bordelli militari della Terza Armata fossero i migliori dell'esercito italiano sul fronte del Carso. Quindi da questo punto di vista la miseria in cui è cresciuto mio padre, messo a lavorare non dopo aver fatto la quinta elementare, dopo aver fatto la quarta elementare, perché Caterina, rimasta vedova a 33 anni con 6 bambini da crescere, aveva bisogno di soldi. Mia nonna diceva sempre, il soldo è il sangue dei poveri, senza soldi, senza sangue, crepi. Tuo padre dice a un certo punto, gli fai dire, che dopo che laureato diventi giornalista, inizi a scrivere su giornali che ovviamente rispetto a Casale Monferrato iniziano ad avere un impatto immediato nella vita della città, solo a quel punto, dice tuo padre, improvvisamente qui il sindaco eccetera, tutti a scappellarsi a dirmi, suo figlio me lo saluti, e lì c'è il cambio di marcia rispetto alla storia precedente. Allora, mio padre era un guardafili del telegrafo, vedete, diventato il capo della squadra di emergenza del compartimento di Alessandria. Il telegrafo allora era molto più importante di oggi, forse non ci sono più nemmeno i telegrafisti, stanno in una canzone di Iannacci, Giovanni il telegrafista, me lo ricordo ancora, e quindi anche in quella posizione era un operaio specializzato, guadagnava meno di mia madre che era diventata una modista e aveva aperto un suo negozio sulla via centrale, che poi è diventato molto importante. Quindi chi portava i quattrini in casa era soprattutto Giovanna, più che Ernesto. Però quando io ho cominciato a firmare sulla Stampa, è stato il primo giornale per il quale ho lavorato, i borghesi della città, il primario, il commissario di polizia, il sindaco, l'avvocato, il notaio, per i quali mio padre non era mai stato nessuno, era un operaiaccio dalle braghe sporche, figuriamoci. Però, il figlio, ma chi è questo Giampaolo Paz? È il figlio della signora Giovanna che ha il negozio, il figlio di Ernesto, quello che fa il capo della squadra d'emergenza di Alessandria. Ah, grandi scappellate, in dialetto, ma che sta il suo figlio, Monsieur Panza? Come sta suo figlio, signor Panza? Senti, ricordo che mio padre, che pur era un uomo cauto, mentre mia madre era più sfacciata, la nonna Caterina avrebbe detto che era più sgenata, perché è l'espressione che io sentivo da bambino quando mia nonna mi diceva fanella sgenà, non fare lo sgenato, cioè non fare lo spocchioso, ma mia madre non era genata nel senso di spocchioso, era genata perché avendo un negozio frequentato da donne, essendo una sarta, una pellicciaia, una modista, la sua, come ha scritto Irene Brin, grande giornalista dimenticata oggi, e aveva inventato il termine modisteria, e aveva una modisteria sulla via centrale, davanti a un grande albergo che alla sera si riempiva di prostitute girovaghe, come diceva la polizia. E allora mio padre era un uomo cauto, però sorrideva sotto i baffi ed era intimamente felice. Un giorno mi disse, io ho imparato soltanto a leggere e scrivere, se non fossi stato uno scolaro diligente non avrei saputo neppure farlo arrivando alla quarta elementare, ma io ho imparato già in seconda a leggere e a scrivere, avevo una calligrafia meravigliosa, quando mi firmava le pagelle rimanevo sempre ammirato, io ce le ho ancora, ho incorniciato nel mio studio una vecchia pagella per vedere la firma di mio padre. E da questo punto di vista, assolutamente, la storia è quella. Ti chiedo, mentre andiamo in pubblicità, di riflettere su due punti per agganciarci all'Italia di oggi. Il primo è naturalmente di spiegare analogie ma anche differenze profonde, perché l'Italia di oggi è un'Italia in realtà che rispetto a quella che descrivi tu, a quella della generazione di mio padre, mia madre, dei miei nonni, è un'Italia in realtà agiatissima e contemporaneamente che non vede un futuro. E quindi però bisogna avere l'accortezza di ricordare a tutti quali erano le terribili condizioni da cui usciamo rispetto alle possibilità che ci sono oggi, e contemporaneamente spiegarsi anche il perché in realtà non ha torto chi vede un futuro compromesso. E dall'altra chiederti una prima riflessione su quello che hai visto e sentito anche tu sabato a Roma, per capire se è un eterno italiano quello del velleitarismo, dell'estremismo e della violenza, che poi travolge ciò che di buono c'è invece nella riflessione e nella forza popolare italiana, o se invece siamo in presenza di escrescenze che nella storia italiana si producono ma che avremmo dovuto imparare a governare, anche a reprimere quando serve, ma soprattutto a prevenire. Allora, eccoci tornati qui, abbiamo ospite Gianpaolo Pansa per il suo ultimo libro, oltre che per tutti i precedenti che spero voi leggiate se non l'avete fatto. Questo libro si intitola Poco o Niente, per Rizzoli, sottotitolo, che ci interroga, eravamo poveri, torneremo poveri. In questo momento stiamo richiamando Pansa perché è caduta la linea. Gli avevamo chiesto da una parte di capire, di aiutarci a capire come questa descrizione della miseria assoluta delle generazioni dei suoi padri, dei suoi nonni, non possa sembrare ai giovani di oggi una specie di dire, una specie di invito a non rompere troppo le scatole, per dire guardate di che cosa siamo figli noi, non vi lamentate troppo rispetto a oggi, e dall'altra quella di interrogarsi anche su le violenze che sono avvenute a Roma sabato pomeriggio, per capire se questa tendenza permanente, persistente nella storia italiana poi all'estremismo che travolge quel che di buono sembra esserci in tanta adesione popolare a giuste, legittime, comprensibili, io dico comprensibili, non so se giuste, legittime ragioni di protesta, non sia destinata poi a travalicare in qualche cosa che da eccesso provoca eccesso contrapposto, in una spirale che poi diventa violenta e diventa incontrollata. Perché se pensate a quello che anche in questo libro ricorre, il Biennio Rosso come episodio storico che poi sfocia alla reazione degli agrari e con il fascismo, è lontano nella storia, non si possono fare i paragoni, ma è un monito permanente nella storia italiana quello che avvenne per via delle immediate conseguenze della Prima Guerra Mondiale. Quindi Pansa, come spiegare ai giovani che la descrizione che tu fai nel libro non è un invito a non rompere le scatole perché hanno tanto e non se ne rendono conto e se ne lamentano, e come invece tornare a questa cosa delle estremismo nella storia italiana? Ma la prima cosa, quando mi hai chiesto di fare com'è questa Italia di oggi agiata, di un'agiatezza secondo me provvisoria, perché rispetto alla storia, certo, e ti rispondo con una citazione di un vecchio libro molto più importante e più bello del mio, che è di Orwell, scrittore inglese, l'autore di 1984. E questo libro si intitola Omaggio alla Catalogna. Orwell era stato a combattere nella guerra di Spagna dalla parte dei repubblicani, stava in una scheggia dell'esercito repubblicano, quella del Partito Obrero di Unificazione Marxista, cioè un gruppo estremista e gruppettaro rosso. A un certo punto viene ferito, deve ritornare a Londra, e mentre passa la frontiera in treno, la guerra civile non è ancora finita, ma finirà di lì a poco, lui pensa alla sua città, cioè a Londra, e la rivede come l'ha lasciata. Dice: una città meravigliosa, con le sue case dipinte di bianco, con le persiane verdi, con i piccoli giardini, i fiori curati, la bottiglia del latte sulla porta, il giornale, il quotidiano messo dal fattorino tra la bottiglia di carta, di latte e lo stipite della porta. Dice Orwell: tutto dormiente di un tranquillo profondo sonno dal quale saremo risvegliati sotto il fragore delle bombe. Cioè lui vedeva perché è un libro scritto prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale, prima dei bombardamenti tedeschi su Londra, vedeva quello che sarebbe accaduto. Ecco, io se mi chiedessi come ti sembra l'Italia di oggi, ti direi, e mi vengono i brividi nel dirtelo e nel dirlo ai tuoi ascoltatori, che mi ricorda questo finale di Orwell. Anche noi saremo risvegliati dai nostri sonni tranquilli sotto il fragore, non delle bombe speriamo, né da quelle lanciate dagli aerei, né quelle lanciate dai tipi che ieri sera, altro che hanno fatto l'altra sera, sabato, quel disastro terribile di Roma, ma saremo risvegliati dagli effetti perversi della crisi economica e della crisi finanziaria. Ecco perché il sottotitolo di questo libro è Torneremo poveri. Io volevo anche un punto interrogativo, ma l'editore, la Rizzoli, mi disse che una casa editrice non può presentarsi in libreria ponendo un dilemma al lettore, deve essere decisa, poi il lettore deciderà se è giusto o meno non metterci il punto interrogativo. Quindi da questo punto di vista, quello che le nuove generazioni forse non afferrano, ma soprattutto che le famiglie non dicono ai loro figli, è che tutto il benessere che hanno conquistato le generazioni passate, che sono quelle dei tuoi genitori, caro Oscar, e di quelli e dei genitori di chi ci ascolta, dei loro nonni e anche dei loro bisnonni, e che abbiamo rafforzato in questo dopoguerra dal 45-46, anzi dal 48 in poi, grazie a periodi anche di crisi ma anche di tanti boom successivi, può finire. Allora, confesso che a me la storia, la faccenda importa poco, perché mentre tu stai per sposarti e ti auguro di fare presto il tuo matrimonio e sei quindi per me un giovanotto, io il 1 ottobre ho fatto 76 anni. Che faccio? Mi devo preoccupare di mio, mi devo preoccupare dei miei nipoti? Come diceva mia madre, con un verbo che era diffusissimo nella nostra cultura di ragazzini degli anni 40, diceva arrangiatevi, si arrangeranno. Io cosa vuoi che tema? Però temo... Mi sentite sempre? Sì, sì. Temo per quello che può accadere a questo paese, che è una specie di anello fragile nella catena europea. Mi viene sempre in mente lo spettro della Grecia, quando vedevo nelle dirette televisive, sono stato inchiodato a guardare queste cose di Roma per ore e ore, e erano vicine a dove stavo io in quel momento, a Roma, però grazie a Dio ero fuori dal cerchio di fuoco di quello che accadeva, e pensavo a quello, pensavo alla Grecia. Quindi questo libro è stato anche scritto, sia pure come idea nata all'inizio, anzi alla fine dell'anno scorso, alla fine del 2010, in un momento dove tutto sembrava, se non tranquillo, meno turbolento di oggi, è diventato in realtà un avviso ai naviganti, o meglio, avviso ai naviganti senza memoria. Guardate da dove siete partiti anche voi e stiamo attenti, perché non dico che rischiamo di tornare alla miseria della fine dell'Ottocento, dell'inizio del Novecento, ma dovremo abbandonare tanti piaceri fasulli che ci concediamo tutti i giorni. Non sto qui a ripeterli, perché i tuoi ascoltatori, a cominciare da te naturalmente, caro Oscar, li conoscete meglio di me. Allora, molti pensano che in questi 15 anni alle nostre spalle ci sia stata una ragione profonda per cui poi si è rafforzato ulteriormente il rischio terribile di cui parli, e che sta nei conti del nostro paese, nel fatto che cresciamo meno degli altri da 15 anni, che abbiamo il debito pubblico che abbiamo, che la nostra posizione netta debitoria sull'estero è diventata di 400 miliardi di passivo, il 25% del PIL. Quindi è vero che gli italiani hanno un grande patrimonio privato nelle famiglie, le imprese e le banche sono meno indebitate delle altre, ma però sull'estero cominciamo ad avere una posizione debitoria netta molto preoccupante. Tutte le ragioni per cui i mercati diffidano di noi ogni giorno, e ci abbiamo gli spread sui titoli tedeschi e la BCE che ci sostiene con gli acquisti da agosto. Ma alcuni sostengono che una delle ragioni profonde di questo è in realtà Berlusconi, la sua parabola di sconfitte e di vittorie, di polarizzazione assoluta, di carismatizzazione personale con tutti gli eccessi e anche i difetti, che poi da 2 anni a questa parte, con le inchieste personali sul suo stile di vita, ne hanno poi provocato una crisi che ha appare profonda questa volta, profonda e molti dicono non più redimibile rispetto alle sue storie passate invece di sconfitte e di vittorie. Ti chiedo una domanda, ma ti chiedo una cosa, il Berlusconi di questi due ultimi anni, di quest'ultimo periodo attestato in resistenza in un bunker e col calendario terribile che ha di fronte, cioè abbiamo la legge di stabilità appena approvata tra i dissensi del governo da portare in Parlamento, il disegno di legge intercettazioni, stiamo tutti aspettando la sentenza del primo grado che sarà di condanna quando arriverà, secondo me, entro la fine novembre, con la possibilità di un'interdizione dai pubblici uffici, sia pur di primo grado e sia pur con la prescrizione dietro l'angolo. Quest'ultimo Berlusconi è la fine della parabola ed è anche la ragione di questo guardare dall'altra parte per in un'Italia polarizzata rispetto ai problemi veri, secondo te, oppure no? La storia è ancora da scrivere. Ma guarda, io su Berlusconi ho due opinioni, una che riguarda l'oggi e il domani e che riguarda invece il passato. Sull'oggi io l'ho già scritto più volte sul Libero, penso di essere stato uno dei primi a scriverlo, come del resto forse uno dei primi a dirlo. Io considero Berlusconi morto, cioè Berlusconi dal punto di vista politico non esiste più, in suo è il governo inutile. Dovrebbe seguire i consigli di Pisano e di Scajola, due personaggi molto diversi ma che gli hanno suggerito la stessa cosa, appartengono poi al suo partito, di fare, io non voglio più usare questa parola retorica del passo indietro, ma di chiudere la sua esperienza, di chiudere nel modo più dignitoso possibile. Poi l'altra mia risposta è questa, ma se noi guardiamo la storia dell'Italia, non dico naturalmente tornando ai tempi che ho ricordato in poco o niente, ma degli ultimi 20-30 anni, Berlusconi è un incidente della storia, non è che i guai dell'Italia sono cominciati nel 94 quando lui è passato dalla condizione di imprenditore fortunato di televisione, anche priva poi ancora immobiliare, alla condizione del leader politico, è cominciato molto prima, il debito pubblico italiano nasce sotto i governi di centrosinistra della prima repubblica, il debito pubblico italiano è nato per le politiche sconsiderate che hanno fatto prima di tutto i democristiani e poi con loro i socialisti, sotto la spinta del Partito Comunista, che non, questo terzetto diabolico, io rimpiango la prima repubblica, ma anche per ragioni anagrafiche, perché come ha detto un giorno Enzo Biagi, il passato ha sempre il culo più rosa, le chiappe più rosa, se non vogliamo usare la parola che gli studenti è vietata. E quindi è nato lì, quindi da questo punto di vista, avere o no un governo oggi Berlusconi, se lo vediamo sotto gli effetti, ad esempio, che si sono manifestati sabato a Roma, non ha nessuna importanza. Se anche ci fosse stato un governo delle sinistre, la truppa di sovversiva che si è scatenata in città, con il consenso, diciamo la verità che i giornali di questi giorni hanno sempre taciuto, con il consenso di una parte dei corteo degli indignati cosiddetti pacifici, perché l'abbiamo visto tutti in televisione, che dal corteo uscivano centinaia di giovani non incappucciati che quando la polizia cercava di fermare questi ribelli alzava le mani per dimostrare di non essere armata ma gridava assassini tornati indietro. Quindi sta come sempre accade nei momenti di grande crisi anche economica, ma in Italia è accaduto anche quando non c'era la crisi economica, ma noi non possiamo dimenticare che il terrorismo di sinistra, anche quello di destra, ma quello di destra è stato un fenomeno molto isolato e limitato. Il terrorismo di sinistra, iniziato con le Brigate Rosse, continuato con Prima Linea e con altre di queste bande, è stato un caso unico in Europa. Unico in Europa. Perché? Perché anche io ho scritto, ahimè, anche libri sul terrorismo di sinistra, dovremmo fare un paio di altre tue trasmissioni. Per approfondirlo. Un'amabile ripresa, senza alcuna offesa al collega che dava le informazioni sul traffico, via Pindaro, grandissimo poeta, i voli di Pindaro sono quelli che si dovevano al fatto che è uno dei poeti delle Olimpiche, mamma mia. Però attenzione, perché dalla radio noi abbiamo, io per primo, anche il dovere di non sbagliare gli accenti e di dare anche l'idea che sappiamo qualche cosa ogni tanto. Allora, domanda Giampaolo Pansa, mi si dice, ma ai suoi nipoti, non a suo figlio Alessandro che mangia, ma ai suoi nipoti, ai figli di suoi figli, a quella generazione, oggi Giampaolo Pansa cosa direbbe? Direbbe per chi, per voi che potete andare alla scuola, all'università aperta, la massa, tutti eccetera, siete bravi e volete andare, ve ne andate fuori e non tornate più perché non c'è speranza in questa Italia, oppure per dare una loro una speranza, cosa direbbe Giampaolo Pansa? Direi di fare altre, di percorrere altre strade, di fare degli altri mestieri. Stamattina, mentre facevo la prima colazione con Adele Griselli, dicevo, perché io sono rimasto da questo punto come ero quando ero ragazzino, faccio domande, parlo, strapparlo, riempio le orecchie di chi vive con me, ho detto, ma come mai non nasce in questa zona della Toscana una scuola per governanti? E Adele mi dice, cosa intendi per governanti? Intendo una scuola per ragazze, ma soprattutto, ma anche per ragazzi, che imparino a governare e a badare, attenzione, non una scuola per badanti, alla vita e alle case delle signore anziane, dei signori anziani. Dico signore perché anche qui in Toscana, il mio paese, non voglio dire qual è così non mi vengono a rompere le scatole, è un paese di vedove, le donne vivono più a lungo degli uomini, possono avere anche un po' di risparmi sperando che le banche italiane non crollino, però hanno bisogno di aiuto, così come c'è bisogno di falegnami, c'è bisogno di idraulici, c'è bisogno di elettrauto, c'è bisogno di piastrellisti, di imbianchini, di fabbri ferrai, non si trovano più, si trovano qua, io lo vedo, ma questo penso che accada in tutti i paesi italiani, soltanto dei signori che hanno tra i 40 e i 50 anni, che cercano allievi, cercano apprendisti, cercano aiutanti, disposti a pagarli molto di più di come erano pagati, di come sono pagati i poliziotti che sabato cercavano di difendere la nostra tranquillità. E non li trovano perché i ragazzi vogliono avere, soprattutto quelli che, i tantissimi che vengono mandati all'università, vogliono, si vivono nell'illusione, alimentata ahimè dai loro genitori, che una laurea, parentesi, una riforma che a Berlusconi non sarebbe costata niente, era togliere il valore legale alla laurea, non costava nulla, non è stato fatto. Qualche giorno fa una trasmissione televisiva della RAI, mi sono ritrovato di fronte a tre ragazzi, due ragazze e un giovanotto. Le ragazze erano laureate in scienza delle comunicazioni o della comunicazione, il giovanotto laureato in sociologia, non trovavano lavoro. Gli ho detto, ma cosa sperate? Cosa aspettate? Nel frattempo sugli schermi di questo studio RAI comparivano interviste del più grande pasticcere di una città toscana, non mi ricordo se era Prato o Lucca, del presidente dell'Associazione dei Panettieri Italiani, che disperati invocavano di poter trovare degli apprendisti che erano disposti a pagare fino all'inizio, fino a 1500 euro al mese, per poi salire anche a 2000, non li trovavano. Cioè, noi abbiamo avuto un sistema educativo e un sistema familiare terribile, quindi io ai miei nipoti entro in una questione molto privata e spero che loro non se ne adonano, che hanno ormai 18, 16, 17 anni, inviterei una volta finito il liceo a fare degli altri mestieri, ma qui mancano persone, mancano infermieri che vadano di casa in casa, mancano badanti che non siano le solite signore ucraine, benedette, per fortuna che ci sono, mancano persone che si curino della salute degli anziani anche senza essere medici, mancano i medici, mancano gli infermieri, cioè, cosa facciamo? Vogliamo diventare un popolo di laureati senza lavoro? È bello, che facoltà fai? Faccio una facoltà dei laureati senza lavoro, questo io gli consiglierei. Ecco, mi dice, ma sì, i paesi crescono soltanto se cresce l'istruzione. Sì, ma l'istruzione non può essere, non può appartenere a tutti, dico una cosa forse reazionaria, per cui ci vorrebbe non soltanto abolire il valore legale alla laurea, ma anche rendere più stringente la selezione nei corsi universitari più importanti. Ecco, questo mi sembrano delle, questo ci vuole. Ecco, delle, come sempre, pillole di realismo che rispetto a illusioni e a 25-30 anni di illusioni sembrano reazionarie, ma in realtà sono un richiamo alla realtà. Ecco, come no. E questo, io condivido il senso finale di questa risposta concreta alla generazione dei nipoti. Io tra l'altro mi sposo non perché sia un giovanotto, ma perché sono un ritardatario, perché in realtà non sono affatto giovane, e dico a Giampaolo Pansa grazie per quello che fa. Vi ricordo il titolo del suo libro Poco o Niente, Eravamo poveri, torneremo poveri. E fatemi concludere questa trasmissione. Domani ci occuperemo di cattolici, perché c'è quel seminario oggi a Todi con tutte le associazioni trasversali del laicato cattolico che dicono un cambio di marcia sulla politica. Io sono molto pessimista sull'evoluzione politica italiana, sul dopo Berlusconi, su cosa capterà con la sinistra. Vedo caos, confusione. La realtà di un paese che doveva fare delle riforme profonde e non le ha fatte è una realtà che avrà un'eredità per mettere a posto di lungo periodo. O non ci illudiamo su questo e parliamo di cose concrete, e non ci illudiamo con la generazione dei nostri figli e dei nipoti che abbiamo da avviare, e gli chiediamo di guardare la realtà com'è e non come gliel'abbiamo dipinta. Oppure io credo che il sottotitolo del libro di Giampaolo Pansa ancora una volta azzecchi, perché dà l'idea di una curva spazio-temporale che si piega, che diverge da quella di molti altri paesi e che ci ritorna al nostro interrogativo: il velleitarismo, l'estremismo che abbandona la realtà e che ci fa abbandonare tanti valori che in realtà nei milioni di italiani vivono in una tradizione, ma anche in una storia oggi condivisa, storia di lavoro, di fatica, di dignità. E purtroppo il velleitarismo accende orizzonti di speranza che poi con la realtà non sanno fare i conti. Grazie a Giampaolo Pansa e a lui, appuntamento con noi a domani, linea giornale radio 9 in punto.